Tutto diciamo riprendi. E per un attimino. Gianni, ancora c'è sì. Ehi, hey, io volevo parlare con un amico per vedere se mi ascolta, ma dove è venuto dall'amico? Stavo guardando da Uzzico, però è una zona nascosta al centro storico, non so se ti sente. Uranio, lo senti a Gianni W? Ehi, cazzo, che sento a Gianni W? E allora, mi pare che stai arrivando con un segnale di 6, eh? Un Santiago di 6, non è di... peccato che c'è questo disturbo, diciamo, atmosferico qua, se no, diciamo, sarebbe ancora arrivato meglio, ma che tutto lì, ripeto, di radio. Va bene, Gianni, non più ruolo, non certo che ti sto tirando fuori, sono un radio, canta, comunque, qua in trasmissione, canta, riprendi Gianni Dubbio Roma, avanti. Ehi, no, Gianni, vai, già ti ascolto anche io, vai. Sono in barra mobile ma ti ascolto, dai, la mia parte mobile ascolta tutti. Avanti, di nuovo, ora li puoi far girare tu. Ho ripreso, vediamo un attimino, stavo parlando con mio figlio, l'ho ripreso nuovamente. Va là, va là. Non so se mi stai ascoltando, Uranio, però io sono in barra mobile, sto accompagnando mio nipote e poi mi ha scritto tutto a nuovo. Avanti di nuovo, dici. È positivo, dai, positivo. No, Uranio è la posizione, io lo so, dottor Bellui, perché lo so. Se lui sarebbe stato dalla parte Trastino e peste Mulina su meccanico, il tesoro Antonio, il tesoro Mulina, l'officina di vicino al cimitero, dalla parte opposta, che di fronte a Sassari, lì tu sei arrivato a una bomba, capito? Però tu sei dalla parte opposta, capito? Tu mi pare che sei vicino dove c'è Piguni, quelle materie idride, giusto? Piguni? Non lo so. Vabbè, comunque... diciamo prima, io sono, diciamo, più dopo la chiesa, ma quando ci sono, quando sali su, diciamo, su verso la chiesa, io sono dopo la chiesa, capa, sono dopo la chiesa, quindi, diciamo, ripeto, mi trovo, diciamo, tutto, diciamo, una parte del paese che mi nasconde, diciamo, la zona di Chiesa Sierra, capi, che è un lungo, capa, e comunque, è bene lì. Rosario, forse tu sei arrivato lì, alla chiesa del Rosario sei arrivato. qualche possibilità, o 100 litri forse plus, mettiamo una centinaia di metri, dai, un centinaio di metri più su di Piero Parole, e metto in quella zona lì, insomma più alto di Piero Parole, insomma, tutto lì. È positivo, è stato appannato bene, Bernardo Piero, e sai che abita, dice, attaccato a Piero ci abita mio figlio, mi. Attaccato a Piero abita mio figlio, mi. A Piero Barone. Io sono lì, non riesco da noi, però si vedono, mi dà uno da casa sua e uno da casa dell'altro, lo sai, con Piero, mio figlio con Piero Barone, si vedono, e abita di vicino. Deve fare un più ampio che abito in mezzo, se Piero Barone c'ha il cortile dietro casa sua, tuo figlio c'ha, diciamo, è sotto, diciamo, il cortile di Piero Barone, in pratica, che anche lui c'ha il cortile sotto quello di Piero Barone, lì. Non so, lui abita la moglie di Giovanni Mura, lui è il genero della moglie di Giovanni Mura, ho capito, lo capisco. Roger, tutto confermato al 100, super al 100, dai, tutto lì già sono da me, non mi preoccupare. Non mi sfugge niente a me, quando voglio non mi sfugge niente, quando voglio che mi sfugga qualcosa, dai, soccorre dove vuole andare la situazione, che non mi interessa, tutto lì. Ho capito la situazione, scappa, e comunque io, vabbè, dove posso lamentare, però, quello che diciamo, con una... Con l'Atenino, sto dando, diciamo, una pombera, una mini pombera sto usando, ripeto, sto usando una mini pombera. Sono infatti, sto aspettando che mi arrivi l'antenna, perché ho tirato l'antenna da Lucca tramite un altro amico che mi ha fatto un'ordinazione, e ho portato già, diciamo, su di, diciamo, le chirurgia, un altro questo qua, e, diciamo, ha fatto i versamenti, e sto aspettando che mi arrivi l'antenna, ora. Quando piacciono quello lì, effettivamente di attento, adesso non mi ricordo quanto era per l'attesa, però quando prima di arrivare ancora mi ricordo, ok, ma tutto lì. Vabbè, dai, ripeto, la cosa di Dio si può mettere una vita a casa, tutto lì, fa girare gli occhi a fare la piano, lo stiamo lasciando totalmente in bianco, poverino, ripeti, dai. Che positivo, te lo rilanciamo subito. No, adesso mi sta arrivando benissimo a me, sarà perché è pulito, però mi sta arrivando bene. Oh, io sono solo il baracchino, attenzione, sto uscendo infatti il baracchino, non è che sto uscendo di cose. No, comunque c'è un'altra radio, non so se ti piace questa è un'altra radio, comunque, dai, un'altra radio, un Galaz, è un Saturnetto, dai, un'altra radio. Però con il microfono amplificato, tutto qua, facciamo girare a Graziano, avanti Graziano. Cappa, ma io prima all'inizio non l'ho sentito, però l'aiutino per me andava bene, lo sento benissimo, chiaro, benissimo. Gianni, tu come lo senti? Sicuramente Gianni era in macchina e è arrivato a destinazione, sicuramente. Sicuramente è arrivato a destinazione. Comunque mi ha mandato i saluti con Ivano. Ivano, autista di Carlini, mi ha mandato i saluti l'altro giorno. Anche di un Tomasempre, anche Francisco a Tia. Perché ci conosciamo, io mica sono, diciamo, io, diciamo, guardo anche con chi faccio la conoscenza, visto che sei, diciamo, una brava persona, quindi diciamo, ho ritenuto giusto anche di farti mandare saluti tramite il brano Kappa. Ok, tutto lì. Kappa, vabbè, sì, infatti ti ho anche detto che c'è un momento non si ricassa, ok. Stai dando un preato, anche io sto qua, sto dando un preato, non sto dando il microfono che c'era, sto dando preati della Renson, modello VT251, da Fabio, ok, un bel microfono, ok. Bene, è anche il microfono, non c'è la cappa tanto male, ok. Mi dovresti dire se senti qualche po' di amplificazione, Luigi, ripeti. No, va benissimo, ora c'hai una bella radio, ma bella veramente, guarda, non ti ho mai sentito così bene. C'è una bella radio, va bene, è abbinato tutto bene, la radio è giusta, c'è una bella radio proprio bella, chiara, pulita, con l'amplificazione c'è una leggera, però va benissimo perché la radio è bella, corposa e chiara, va bene, ora non tocca il genuta, l'ha tutto come in testa, che anda troppo bene, ma benissimo, e con questo aiutino è abbinato bene perché non stai né saturando e né niente, perché è giusto, la radio è perfetta, è chiara, con l'aiutino a volte va a saturare un po', invece sta andando benissimo, ma bene veramente, capito? Facciamo girare a Graziano, avanti Graziano. Io ci sono, Ma ci sei già, ti abbiamo rilanciato, ma pensavo vedi cosa, dai, riprendi tu allora già. Era la radio un posto di blocco, non posto di blocco, un incidente stradale, quindi c'era la polizia e cose, non potevo risponderti, dai. Ma positivo, ma domani stasera questa cosa o di dove? Ponte Nuovo. Ponte Nuovo, allora, Ponte Nuovo, dov'è Ponte Nuovo? Ponte Nuovo dov'è già? Proseguendo da via Succi, si dice. Perché ormai è vecchio, giusto, prima dicevo un Ponte Nuovo, hai ragione, e adesso è diventato vecchio però, perché c'è un po' d'anni. Vabbè, c'era Ponte di Rosello, quello lì che lo chiamavano Ponte Nuovo e tuttora io lo chiamo così, poi. Vabbè, comunque quello lì, c'è una macchina che ha fatto testa e cola, c'è molto con l'altro, ha fatto testa e cola, e c'erano vigili urbani, eccetera. E quindi quando tu mi chiamate ero proprio quel portolino che potevo rispondere. È positiva, facciamo girare a Graziano, vai Graziano. Ehi, ha ragione Luigi, adesso non è più nuovo, è vecchio, si è trascurato, gli ha dato la conta, che sono morti, ma... comunque ti volevo dire, Eurario a me mi arrivive, con l'aiutino l'ha messo, all'inizio no, era molto brutto, lo si incendia, poi invece se l'ha messo a posto, l'aiutino è abbinato benissimo, e arriva tranquillo, benissimo, pulito, cappa. Luigi, a me come mi senti? E tu arrivi bene, tu sei un Santiago nome anche di più da me, capito? E tu sei di fronte a me, capito? Grazie, tu sei di fronte a me e mi arrivi bene, ma anche Uranio, perché Uranio sembra così, ma perché non è in basso, e lui lo do anche dove lui, anche se c'è quell'affare di fronte, che lo ripetisce, lui è in alto e arriva perché se c'è un'antenna tipo la mia, una Mantova 1, una Mantova 5, una Mantova Turbo, cavolo, tanto è il massimo di da Usero, e Usero è alto, e Usero io mi è capitato in camion e arrivo, c'è vicino a Urbia, attenzione, e da Usero, da dove lui, prende la zona verso Cagliari lì, verso Macomè, verso Abbasanta lì, lui va in quella zona lì con un'antenna buona. E come che spara? Lo sai quando sono arrivato io dalla chiesa di oggi di Bonaria alla Basanta lui? E ho parlato con Roberto Rapido, mi non ti facendo male. 9:05 sono arrivato. Sì, ma perché è così? Ma io lo so che è così. È così, perché arrivi da lì, quel punto lì è alto, mentre vengo in camion a me è una cosa impressionante, arrivi benissimo da lì, capito? Usero è alto, non è basso, arrivi bene, comunque va bene, complimenti, ora va benissimo, l'abbinamento va bene e stai andando alla grande, non rischio di essere trattente come te baracchino, però vai alla grande. Se metto un'antenna come si deve, vedrai che esce benissimo, va bene. Ci vuole una Mantova lì e basta, la Mantova supera tutto. Che detto hai ora? Non l'ho sentito, calma, perché cioè sentivo che stava modulando in sottofondo, però evidentemente c'è anche deve essere il movimento, il stato mobile quando si è in movimento lì, specialmente dentro la città a casa è molto difficile. Sentivo che stava diciamo modulando, però non riuscivo a percepire diciamo passaggio, non sono riuscito a percepire il suo passaggio, Canta 100, comunque, Luigi, anche tu, mi sta arrivato un saluto. anche altri, comunque c'è anche quello rosso, è vero, sì, con la scritta Simula, c'è scritto Pierpaolo davanti in giallo, nel vetro, nel paravrezza, c'è scritto Pierpaolo in giallo. Non so che apparecchio sei usato, però è un Ora, io sono sotto casa con la macchina, ecco, non mi ascolti da qua. Ora, non hai sentito la Gianni, è arrivato sotto casa, te l'ascolti in macchina. Eh sì, l'ho sentito, però non ho capito come va senso qua me. È un segnale di 5, sta arrivando, è un segnale di 5, una radio di 3-4, però c'è un po' di corrente, di disturba con la radio, ma niente di particolare, sta arrivando bene qua, ok. Benissimo, io ve la posso salutare perché chiudo qua, chiudo perché la strada non si rende all'esterno e chiudo. Va bene, ciao Gianni, allora se mi stai tirando fuori, ciao a te, anche a te, Luigino, e ciao anche a Cristiano, quando tu potresti visitare la parte mia, ok. Io chiudo qua perché la così recca, diciamo, all'esterno, calma. Ok. Va bene, ci sentiamo, grazie diciamo del piccolo possiamo e delle quattro di Santarisco. Ci sentiamo alla prossima, sperando bene, spero bene le migliori condizioni di queste. Va bene, ciao da tutti ancora, da parte mia, buon regista, KCL, vi saluto e buon proseguimento di serata e buon proseguimento anche di questo. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao Uranio da Paolo Torres. Uranio, dai, sperando che mi ascolti meglio adesso, controlla il segnale a vedere se è aumentato qualcosa. Fate buon proseguo della serata, buon tutto. Ciao Uranio. La Puglia si è aumentato, ora da 7 si è salito a 8. È un paese di Santiago che ha tirato su, eh. È tirato su un paese di Santiago. E comunque saluto anche la vittoria di Papacanto, saluto la carta, ok. Saluto anche a Puglia. Francesco, va bene, dai, saluto ancora la partita, io vi saluto e da questo momento non mi prendo, eh. Ok, c'è sul giro è aumentato, sai cazzo, non ci mancherebbe altro. Scusate un attimo. Ok, ciao Urani, buonasera. Sandro Porto Torres. So che stai andando via, stai chiedendo. Ti chiedevo soltanto un cuore K, grazie. Ok, K, certamente ti do un cuore K. E tu stai arrivando a Santiago di 8 qua in la radio di 5 perfetta. Santiago di 8 5 perfetta. Vedi un po' di, se vuoi, di ricambiarmi, diciamo, come si suol dire, diciamo, la gratitudine controllata, riprendi avanti. Capo Uranio, dai, non ci sono problemi. No, sono intervenuto scusando la ruota, in quanto c'è stato un po' di tempo addietro che cercavo di collegare Uranio, ma evidentemente non era, diciamo, un momento positivo. Ok, Uranio, a parte tu è migliorato moltissimo, ti ascolto benissimo. E un Santiago di 3, una radio di quasi 5, va benissimo. Niente male, merito anche di questo piccolo, diciamo, sostegno, diciamo, sottofondare, ok, che diciamo permette di fare, diciamo, qualche piccolo progressino che questo scappa. Va bene, dai, saluto ancora tutti, io chiudo qua, da questo momento non riprendo, saluto ancora, riprendi Lucia, fai girare, dai, non tira, fai girare. E parte, ti mando avanti a Gianni e a Coso per i saluti che non ti hanno salutato e a Graziano, vai Graziano per i saluti. Ciao, ci risentiamo alla prossima, le migliori, vedrai quando metti l'antenna nuova non hai bisogno neanche dello scalino. Ok, ciao, riprendi già. A posto, dai, ciao, ciao ora. Eia, Gianni forse era arrivato sotto casa e sta salendo a casa. Eia, Sandri, cosa stai combinando? Ok, comunque ciao Gigi, ciao Buffo, buonasera, scusate se ho fatto una intrusione tipo lampo, dai, siccome con Uranio c'è stato un po' di periodo che non riuscivamo a contattarci, allora ne ho approfittato per salutarlo. Sì Uranio, se riesce a mettere una buona antenna da quel punto lì, diciamo, acquisisce molto, va bene. Tempo come il più sul dire. Ok, e cosa sto facendo Gigi? Mi sto sbloccando. diciamo, c'avevo una scheda che stavo cambiando alcuni componenti, ma una scheda che fa parte del mio pacco, e che ogni tanto parte qualche componente, quindi mi tocca andare lì a sostituire, vai. Ah, ho capito. Ma sta salendo un sacco da me, il paletto mi ha fermato, no, già sta andando. Purtroppo il lavoro, ma tu mi fai i lavori più di giorni festivi che quelli settimanali. Il mio lavoro, come sai, Gigi, il mio lavoro è continuo, capito? Non riconosce feste, anche nelle feste magari ancora meglio, quindi bisogna trattare quando ce n'è, perché poi è come la formica, capito? La formica, lavorare l'estate per l'inverno, e vabbè, comunque, piano piano, va bene. Buffo, avanti, ancora buonasera. Papa, ricambiate la buonasera, lo travaglio, bisogna abbigliarlo, quando è, non gli lasciate perso, dicevo io quando lavoravo, travagliavo un po' di vacca, di nadari, di pesci, non mi interessava, l'importante è che facevo la pagnotta, poi non avevo di tempo quando non avevo lavoro, dunque a Puglia riprendi lui. È positiva, io sempre la settimana perché non volevo mai dipendere dai miei genitori, capito? Io anzi aiutavo i miei genitori, però loro non me ne davano a me, capito? Non gliele chiedevo io, anzi io mi sono sempre guadagnato io i soldi per uscire, per divertirmi, e quando qualcosa a volte mettevo qualcosa in casa pure, però no, per quello non mi hanno mai comprato né roba né, sempre non sono comprato sempre con i soldi miei, sempre da ragazzo di 15 anni così, ho iniziato a lavorare 16 anni, me l'ho sempre comprata io la roba e non ho chiesto mai una lira ai miei genitori dall'età di 16 anni. Capa, allora ti potremmo toccare la mano, io stesso, la stessa cosa che hai detto tu, non gli ho mai bruciato porta a nessuno, non le ho mai chiesto né a mamma né a papà, ma ci ho sempre fatto giù, ma per dire io quando rimanevo senza lavoro, una, due dì, a chi da voi ho sempre travagliato, ho la dritta, la sinistra e poi qualsiasi lavoro, mi sono sempre arrangiato. Purtroppo era così, se volevi la famiglia come ho fatto io, e poi sono andati a domandare papà e mamma che non avevano più poco di me, era minuti in casa. Io quando andavo a militare, cavolo, ho lasciato, perché io lavoravo, mi avevo dato qualcosa di liquidazione, cosa ho lasciato a mamma, a conto di mamma non mi sono portati appresso perché... E quando sono tornato mi pare la prima ricetta e mio figlio aveva fatto un bozzo a sonda, si chiamava un bozzo in campagna e mi voleva un motore, mi voleva Guido e gli ha trattato, gli ha operati per quello, capito? E io sono tornato, io chiusi, avevo quei due giorni di licenza e mi è toccato andare a farmi anche tornata anche cose del travaglio per rifarmi nella panda a partire militare, lo sai. Purtroppo, anzi, io quando lavoravo in casa mia madre glieli davo i soldi, sempre glieli ho dati, finché ero in casa ho sempre dato, no, però non le ho mai chiesto, capito? Sì, mi faceva qualche regalo, poi quando mi sono sposato, però andare a chiedere non ci sono mai andato, mai e mai. Positiva, no, perché io poi lavoravo, hai capito, lavorando no. Ce l'avevo i soldi, capito, me li gestivo e non ho mai chiesto a mia madre, mai. Io sempre qualche cosa gliela davo in casa e forse sono stati tutti così, solo che e ho lavorato con la verità, ecco perché sto dicendo io fermo, ci sono stato quasi mai. Nulla. Ecco. Perché se noi andiamo a prendere dal 73 a oggi, vero sia che ho quasi 40 anni in contributi, siamo 2013, dallo 73 a oggi non sono mai disoccupato niente, nulla. dire niente. So io lo stesso, anche se ho fatto mille lavori, si può dire a chi vede la prima. Hola. Volà è entrato là, rapito, ma non è come adesso, prima lo trovavo facilmente il lavoro, qualsiasi lavoro, ma oggi non è più così. Purtroppo noi la rinimacco tutti come ti sono per dire, io non ci sono mai andato a chiedere, invece uno dei miei fratelli era sempre ivi, si può dire che fava niente, per dire, no, e allora, a chi era mandrone per un travaglio, lo travagliava, hai capito? Ecco. È positivo, ora è entrato qualcuno, forse ha chiesto il break. Avanti. Sì, ciao a tutti, Roberto da questa parte. Non so se la batteria siamo cariche, sto usando questo vecchio microfono, ditemi qualcosa. No, no, per il momento sono cariche, Roberto, va bene. Stai andando bene per il momento, vuol dire che sono ancora cariche. Ciao Gigi, ciao Graziano, non so se ci sia nessun altro, faccio un saluto generale a tutti quanti. E dovrebbe essere Sandro, Sandro c'era pronto, vedete se non si è sentato. Ehi, capa. Ok, ciao Roberto. Ciao Roberto, buonasera. Ok, da parte mia, normale, tranquillo. Ok, un attimino di stand-by da parte mia che se non mi brucio le dita. Tutto lì. Ok, continuate pure, riprendi lui. Non è che sono rientrati, sono tutti i pubblici che sono rientrati e ben sentito. Positivo Gianni. Gianni, la curiosità, chi è che c'ha la macchina come la tua però scura? La macchina tipo come la tua con l'antenna dietro, dietro però, chi è? Quello di Porto Torres, è un ragazzo che non urla mai, ce l'ha dal padre prima, che abita via Balai lì nell'angolo. E dopo sempre sempre questa macchina che c'è da Porto Torres, questo ragazzo in occhiale mi pare che è. E c'è l'antenna, c'è la dietro proprio, ho detto c'è l'antenna e al limite la potrebbe togliere, se non modula mai se la potrebbe anche togliere. C'è anche una bella stazione del padre, capito? Cioè il padre modulava e lui è rimasto. Oh, ho visto quella macchina, Robè, ce l'ho volo per te. Ho visto quella macchina, quella Polo, cazzo, distrutta davanti. Qual è Polo? Al Ponte Nuovo, un incidente c'è stato, tutta distrutta davanti. No, no, no, non so niente, non l'ho visto. Ho visto una sarda di Ferrari, ma là c'era il raduno di Ferrari oggi, c'era una quindicina, tutte belle, tutte in fila, salendo dall'Assentino. Le ho viste anche io ieri, Robè, sono andato a Sorso, salendo da Sorso, le ho viste sulla strada di Plattamona, tutte rosse erano. Sì, ma la prima era gialla, tutte rosse tranne la prima che era gialla, però gialla non mi piace, non rende, perché no, le quelle rosse c'erano le Spider, 360 Modena Spider, troppo belle. Beh, c'era un raduno sicuramente perché le ho viste anche io ieri, no, la gialla non l'ho vista, probabilmente l'ha passata prima, le ho viste tutte, wow, tutte passando una dietro l'altra. Ehi, come ascolti già con questo microfono? Ho detto poco fa anche a Gigino, perché pensavo fosse la batteria di scarico, ho sistemato il PTT perché era mezzo loffio e era mezzo consumato, adesso l'ho avvertito uno con l'altro e sembra che funzioni bene il tasto. No, perfetto Robè, ti sento perfetto, dai. Non c'è nessun problema. Ehi, ok, riprendi, grazie a tutti. Papa, ciao Roberto, anche io ti sento abbastanza bene, pulita, chiara, ti intendo bene, e tu come mi senti? No, anche io ti ascolto perfettamente, attualmente non ho la colonia esterna, mi sto ascoltando tutti con l'altoparlante dell'apparato, niente da dire. Stamattina quando ho fatto un sacco di collegamenti con tutta l'Italia e cosa, stavo scendendo a Trentino, quello che arrivava a bomba più forte di tutti, l'ho sentito anche a te grazie a Gian Maria mi sembra, e altre persone, c'è quello di Ussi, Antonello di Ussi, una bomba, arrivava a bomba con la radio, anche Pomponio non scherzava. Papa di Rocchero, riprendi già. Cane sta seguendo il figlio che sta facendo casino. Ehi, ma sai cos'è? Ussi è alto per lì per Trentino, hai capito Robè? E arriva bene. Ussi è in alto, stesse di fronte, qua arriva bene, qui a Ottava, Porto Torres, ho visto che quella zona di Alpi verso Alghero arriva bene lo stesso, mi è capitato di sentirlo. Ma è perché è in alto, capito? particolare fanno tutto il percorso, cioè partire da dentro città, da dentro Sassari, sino ad arrivare a Trentino, era una bomba. Arrivavamo, infatti ho detto cavolo, nel pezzettino di Toso, di Ottava, tutto quel rettilineo di lì, che diciamo non è favorevolissimo dove ci sei tu, Mico, la zona lì, arrivava la bomba. Cioè, non so se si stava aiutando, se aveva qualcosa di sotto, però la radio era uno spettacolo, il segnalino molto forte, ho guardato lo Smith, vabbè c'è quello digitale. Io mi sono accorto perché non stavo uscendo in questi giorni, perché l'avevo usato la prima volta il baracchino e funzionava tutto bene, mi ascoltavano tutti. Oggi quando stavo usando non mi ha ascoltato, si è detto a Gianni e a Coso. E ho portato il rosmetro per controllarlo, che deve stazionare la manetta, deve essere, c'è il PL, infatti ho guardato, c'è il PL che non c'è la massa, probabilmente sono uscito solo col cavo dell'antenna. Sì, l'ho detto, se tu non sei una cosa, che Ottava è molto positivo nella parte di certe zone di Sassari. Tu per esempio, io a Usilo, Nurvi, quella zona di andando verso Chiaramonti, Macomere, coso, io lo ricevo bene da Ottava, Budujo, sento bene a da San Nicola Nino 1, quindi io li ascolto bene qua, da Patata, da Budujo, io riesco a sentire, e con l'avventura ci riesco anche a parlarci, capito? Invece se sei in zona di Sassari non ci riesci tu, quello che ti voglio dire, Ottava è positivo, attenzione, è abbastanza positivo per Usi e per quelle zone che ti ho elencato adesso, non sembra che sia più in basso, invece non è vero. Per esempio, Gianni sembra che sia in alto, eppure per Pinuccetto il Moro a Budujo è negativo, ha difficoltà ad ascoltarlo lui, invece io qui a Ottava l'ascolto e ci parlo, hai capito? L'ascolto anche in vettura, dalla vettura da Budujo, invece dove Gianni che sembra che sia in alto stesso lì, è negativo, hai capito? Quello devo dire, sono delle zone, Ottava non ti crede, è abbastanza positivo Ottava. No, lo so benissimo, infatti anche l'altro giorno, probabilmente visto che c'è la piana, fa l'onda, riflette bene, tu Budujo lo parli molto meglio di noi, diciamo, di quelli. A me mi hanno tagliato un po' le gambe perché mi hanno fatto quei palazzoni sopra il Conti dove c'è il sanatorio, e io Budujo lo ascoltavo, cioè lo ascolta ancora, però lui non mi ascolta, a momenti non riesce a capire quello che dico. Da quando mi hanno fatto quei palazzoni dietro mi hanno tagliato le gambe a me. Io sono molto favorevole per la zona di Alghero, quindi posso dire la mia, un po' scomposto verso zona di Castelsardo e quelle zone lì dove probabilmente Gianni farà la differenza rispetto a noi, però ho visto che voi giù da Ottava parlate molto bene per Ozieri, Chiaramonti, Budujo, tutte quelle zone lì, arrivate c'è una bomboletta. Vidalba, perché io guardate, ieri a partire a baracchino solo, sino a Vidalba ci stavo parlando, partito da qua da Polontore dove Giovannino, è arrivato a Vidalba, è entrato dentro Vidalba e l'ho salutato dentro Vidalba, ed ero solo a baracchino me da casa da qua, ed è positiva la zona, per me è positivo quella zona lì pure, hai capito? Invece per voi è negativo, invece a me per Vidalba quella zona lì è abbastanza positivo, hai capito? E per quello sto dicendo che Ottava è abbastanza cosa, perché io ho notato in vettura, quando giro da casa e vado verso, anche da piazzale di casa a volte, dentro le camere sentivo, e loro mi sentivano voi, qualcuno lì non aveva difficoltà a sentire, io ho provato la vettura e ascoltavo anche la vettura. Se poi mi sposto, dove ci sono le scuole, sai, la chiesa che hanno fatto lì, e lui, ti sento con la vettura lì, guarda, sei al massimo del massimo. Arrivi sino a Borore, senti altino da Borore, se ti fermi in quel punto lì dove c'è la chiesa a Ottava, hai capito dove c'è il Danilo, sali lì al semaforo e vai su quel piazzale lì, ti fermi lì, vedi come arrivi a Budujo, come ricevi Budujo e tutta quella zona lì. Sì, ma tu vuoi mettersi negativo per Alghero, Guido, almeno quando c'è la maestrale, lui aveva problemi per Alghero. No, guarda, attenzione, io da casa qua ho parlato sino a Monti, dopo Monti, attenzione, prendendo la discesa dei Monti, con Tommaso, da qua, da qui da casa, ecco perché sto dicendo, Ottava è abbastanza positivo, non sembra, ma è positivo, capito? Poi chi c'è positivo è Claudio, dove c'è l'antenna Claudio non me ne fa nessuno. Sì, Claudio non ha ostacoli. ostacoli davanti, lui c'ha un canale lì che arriva, anche Antonello Pompugno la stessa cosa, lì non hanno ostacoli, sparano per una meraviglia. Lui invece è un po' chiuso rispetto, per dire, a me e Osilo, io non tanto, lui Osilo, pur essendo più vicino, è un pochettino li riceve più bassi di me, mentre in tutta quella zona dietro, la scala di gioco è un po', lui non ce n'è per nessuno, Alghero, ammazza tutti. Vabbè, io sono arrivato da qua a Olbia. Vabbè, adesso non lo so, io non posso dire niente perché adesso è tutto un macello, però prima ci credo, adesso non ci credo, in questi periodi che qualcuno arriva a Olbia e da Sassari non ne ho più sentito, ma ho sentito che gente ci è arrivata, ma anni fa già. L'anno scorso, non anni fa, chiedi da Domenico Tardaretto, e poi te lo dici lui. Sentiva solo a me che parlavo con gli altri, dagli altri non li sentiva. Ma Olbia città, Domenico io lo accompagnavo per un bel tragitto, io e Claudio eravamo gli unici che ascoltava, parlo sino a quando andava a Olbia, però Olbia mai, non lo so, non credo assolutamente, non me l'ha mai detto almeno quello lì, però Claudio quando andava a Perfugas, lui mi ascoltava perfettamente sino a Perfugas, quasi no che arrivavo, e io l'ascoltavo nello stesso livello. Olbia al porto mi ha sentito, poi se fosse propagazione, se fosse, però gli altri non li sentiva, sentiva solo a me. Ma non è tutti i giorni che capita una cosa del genere? Ma capita, e quindi ci sono le zone più favorite a certe persone, ci sono le zone più favorite ad altre, perché secondo i punti dove si è più bene. E poi Claudio, vabbè, nemmeno a parlarne perché sopra un grattacielo, cazzato di cappello, avessi anche io l'antenna sul grattacielo, avrei anche io come lui, però purtroppo non sono sul grattacielo. E lì c'è l'altezza anche, capito? È come se fosse sotto una montagna. Però c'è la... sto dicendo, perché questo pittito mi stanno fatti, sto dicendo, non è determinante molte volte l'altezza, perché io ho visto delle situazioni che sei molto in alto, l'onda la scavalca, tu vuoi dire sei vicino a pochi chilometri e l'onda viene scavalcata, ma è lo stesso discorso quello che fa, come si chiama, Walter Liaburic, dice su certi tipi di frequenze, pur essendo con antenne più basse, eccetera, eccetera, riesce a crepare a gente con antenne molto più in alto di lui. Dipende da dove c'è la stazione e tutto. E quando sei in alto molti ostacoli di inviti a tutti i dimmi, che non è come dici tu. Quando tu sei in alto le onde arrivano dritte, non hanno ostacoli, non sbattono da nessuna parte, quindi riesci ad arrivare meglio. È normale che se tu hai degli ostacoli sei in basso li prendi in pieno, se tu sei in alto li eviti, o no? Normalmente hanno fatto 9% dei casi così, però è capitato, io ho l'esempio eclatante, te lo dico con Gigi, hai visto quanto di distanza c'è tra l'ottava dove stavo io al mare, io l'ascoltavo bene, però c'era gente che era Sassari molto più lontano, arrivava più forte di lui, per dire, stranamente lui era in linea d'aria così maestrale, in linea d'aria erano stati 500 metri, un chilometro, gente di Sassari con 10 km di distanza arrivavano più forti, perché lui scavalcava la scena, mi arrivavano più forti quelli dalla Germania molte volte rispetto a Sassari, l'onda del mare rifletteva, il piano del mare arrivavano più forti dalla Germania di Sassari. Sono tante cose nella 27 che sembrano strane, però è così. Per dire, cosa parliamo, parliamo diciamo col Canada, con tante altre nazionalità, e Cagliari, è difficile prenderla, e allora come mi spieghi? Eppure così, Cagliari è una cosa difficilissima da prendere, eppure parli con fuori, con l'estero e cose, ed è più lontano, che cosa vuol dire? È la posizione magari che non te lo, che ti impedisce certe cose. Sto la persona me l'ha aiutato, comunque siamo molto... Faccio un attimo di bianco, riprendo subito. Stiamo monopolizzando, stavo dicendo già. C'è anche Graziano, facciamolo riprendere. Avanti, Graziano. Perché non c'è un'altra faccia di insulina? Che ore sono? Le 8. Le 7 e mezza, lì sarà andato. Già, ma a livello radiofonico, dalla radio, com'è, basso o normale? Dimmi un po', perché cacchio, non sono proprio, ancora non mi sono ancora ascoltato con questo microfono. Già, va bene, aspetta un attimo, grazie. Va bene, dai, siamo qua, quando vuoi rientro, non c'è problema. Cosa mi stavi dicendo, Roberto? Ho detto. ripeto, se questo microfono, il livello microfonico è troppo basso rispetto agli altri che stanno parlando, tipo Gigino, io lo sento molto forte, a te ti ascolto forte. No, non è basso, Robè. Potrei saltare la pelle di più, ma per me va bene anche così. C'è abbastanza chiaro, per rovinarlo la radio me ne lasciava così. Ma la lascio stare così, da. Ok, sto parlando, sei presente anche abbastanza lontano rispetto a come parlo solitamente. Perché questo cavolo del tastino, come mi muovo, poi a momenti esce e a momenti non è. Adesso vedo il modulo, sto mettendo il modulo questo proprio per capire che sto uscendo, se no molte volte mi inganna e mi frega, ho convinto di riuscire invece non esce. Oggi uno delle canali mi ha fatto i complimenti per il segnale per la radio, complimenti, veramente bella radio, eppure a me mi dire che fai la radio. E oggi c'era un bel di propagazione, c'erano questi cazzo da Siracusa, Ragusa, allucinati, arrivavano con segnali a bomba, ma furti, li ho sentiti anche in macchina, fortissimi. Poi c'erano questi della Germania, di, non mi ricordo che cavolo mi ha detto, ma segnali in FM allucinanti a fondo scala arrivavano, ci ho parlato parecchio, poi stranamente mi rispondevano, a parte uno che faceva bla bla bla bla, appena sentivo italiano si è subito messo in mezzo, però c'erano segnali allucinanti, ma gli altri mi chiamavano loro, perché normalmente i tedeschi sono un po' resti a parlare, però tutti rispondevano, anzi dicevano Italia, Italia, prima che li chiamassi io. Invece io no, non l'ho sentito, forse perché non accedo stamattina, accedo stasera e c'era solo le Canarie, ho parlato con le Canarie e basta. E mi ha fatto i complimenti sia per la radio che per il Santiago, ha detto che arrivava una bomba, che arrivava molto bene. E vabbè, mi fa piacere, dai, che nelle Canarie mi faccia sentire. Ma le Canarie è uno dei pochi posti che ci parli anche di inverno, anche con poca propaganda, diciamo, e forse sono favorevoli. E te vedete, sono lontane le Canarie rispetto ad altri posti, per dire, se consideri il continente, per dire, sono molto ma molto più lontane. Eppure stranamente hanno forse un passaggio, non lo so, si riflettono con i monti della Corsica, arrivano fortissimo. E poi, aspetta che ho collegato, quello di Ostiri, lo stesso arrivava bene, e non benissimo, però lo ascoltavo e mi ascoltava anche lui. Come si chiama? Può essere Franco. È così infatti. Aspetta che cambio il baracchino, questo cavolo di interruttore mi sta rompendo la scatola. Ma che? Ci sei già? Ehi, sono qua, un attimino solo, sto dicendo una cosa a mia moglie. Sì. Magà, siamo qua, grazie. Non vi trovi, ti scendo un buco a te, buonasera. Ciao, vabbè. E ciao tutti i segreti che hai goduto di fare in girella. Così ti piace. Era del mangiare il crocco, mi diverto io. Quando c'è da mangiare a scrocco e bere a scrocco mi diverto molto io. Ah, così è. Gianni non c'è, bisogna portare un minuto. Povera Gianni, Luigi, un parere, che ora ci sono andati. C'è il Meloni, mi soccupa Romeo. Allora non mi ha sentito, ma lo sono rientrato. No, perché stavo parlando con mia moglie, mi stavo raccontando una cosa e ero distratto, là, dico la verità. Cava cava. Vabbè, adesso ci siamo tutti, là. Ci siamo tutti, c'è Roberto Quadrato, Luigi, avanti, Luigi, ci sei. Roberto? Sì, ci sono, ho sentito anche Gio Maria, o sbaglio? Ah, Gio Maria è entrato, ciao Gio Maria, mi hai sentito anche a te, dai, ero un po' distratto, non ero attento alla radio, la dico la verità. Buonasera Gianni, buonasera anche a Roberto, ben sentiti, e cordialità, e anche buonasera anche a Gufo. Bene, comunque già, io sono arrivato a Sorso, non a Udia, Ehi, a proposito di Sorso, c'è un collega che è di Sorso, ed è simpatico, sta sempre scherzando, facendo. E questa ragazza, questa cliente che viene sempre, ha detto, Bobo, qui siamo acque. E gli ho detto, ehi, abito, leva di la billellera. Altro si è cazzato, mi ha detto, tu ti hai fatto il bagno, li leva. guardi nessuno. E a chi asciutta non c'è più Eva. Ah, così è, non ce n'è più. Un po' strano però, è buono, vabbè che sono da Parigi e non c'è passi quella zona. È asciutta veramente. Ma non lo so se li hanno ripristinata adesso, però era asciutta, boh, non l'ho più vista in funzione. C'erano i bidetti di Rusinchi. Ecco una cosa, ma io ci lo per dire, ma robe, non mi dai tu pure se passa la via, ma la via no. No, lo sai cos'è, che i Rusinchi sanno che ho fatto delle condotte abusive, ci sono tutti collegati e non ce la fa più la pressione. E poi chi ci bella di la sarrata dei viveri. Bella grazia, bella che ha vinto tutto e poi ma chi sì, ha attaccato tutto e ce l'ha appoggiata e la Sennari. Molto bene, molto bene, vi stavo ascoltando da poc'anzi ma non potevo entrare. Ecco perché adesso vi faccio della... dei collegamenti e adesso comincia la propagazione così che già siete in una buona posizione per cui potrete fare benissimo di ex. Ok, io li ho tutti terminati così che non ne posso fare più, non mi va più, ecco, tutto lì, vai non me. Non puoi fare più di ex, così ha detto Giovanni. Mario. Non mi interessano più, capito? Magari ancora lo metto così qualche volta, più o meno se arrivo, se non arrivo, ma non ci tengo, non mi tengo, non so, non ho più voglia di chiacchierare per fuori, capito? Vabbè, dai, ci vuole anche la pazienza molte volte e la fortuna di trovare il momento giusto. Dai. Stamattina ero da moto, ma stamattina c'era la propagazione eccezionale, forse perché c'era questa cappa sopra la città, era tutto buio il cielo, probabilmente per quello faceva da specchio riflettente, arrivavano mai i segnali anche per quel motivo lì. Ok, riepiloghiamo i presenti, Roberto, Gio Maria, Graziano, Gianni e poi chi c'è? Vediamo un po' se è rimasto qualche altro che non ho chiamato avanti. E c'era Luigi, ma Luigi ha chiesto un attimo i corrisi, per cui rientra senz'altro un momento. Io sentirei il microfono a Graziano. Vai Graziano, tu fatti il collegamento oggi, sì? Ciao, stavo parlando stasera, sono preso Gianni, poi salutoni da parte di Uranio, da Ugino, stasera c'era. Adesso se ha ordinato l'antenna lo sentirai più bene fino a quando appena gli arriva, mi ha detto. Che devo dire che se si ripiazza l'antenna bene vuol dire che lo ascoltiamo migliore, dai. Ok, molto bene, vai già. Allora, ma già si sentiva già meglio mi Uranio, sentiva già meglio perché stavo uscendo, avevo attaccato un aiutino e si ascoltava meglio, anche in macchina io l'ascoltavo, invece la presa avevo difficoltà anche da casa a sentirlo. No, perché io molte volte lo ascoltavo bene, quei discorsi, lo ascoltavo bene, certi giorni però, e certe sere lo ascoltavo veramente male, poi strano, boh, chissà perché. E a pensare mi sembra che l'aiuto ci dava da sempre, però a giorni lo sento bene, a giorni lo sento male, non so perché. Perché mi ha detto che quell'altro che ci aveva l'aiutino è difettoso, e allora oggi ne ha attaccato un altro. Ed è proprio abbinato benissimo, ci va bene. Ma all'inizio non lo intendeva nemmeno. Allora si è messo l'aiutino, un altro però. Arrivava perfetto qua, si sentiva tranquillo, bene, pulito. Solo sta usando la bumera, mi ha detto che gli deve rubare l'antenna. E vuol dire che ascolteremo meglio, dai, se piace l'antenna come si vede. Bene, bene, avanti. Robè, raccontami. No, volevo capire, ma ora non lo sento anch'io poco fa, prima di stavo facendo ascolto, stavo provando quel microfono là. Ma dove trasmette questo qua? Da Ugino. Ah, per quello che arrivava così forte, no, io arrivavo a Santiago Nove, abbondante qua. Ugino con una boomerang e con un piccolo aiutino, dai. ti ho sentito bene anche io, Robert, ma di solito lo sento più. No, no, non sempre, già l'ascolto adesso, ho capito chi è questo qua, sì. Diciamo, altre volte era più basso, per oggi era un po' più forte del solito. E vabbè, se non ascolto Osile ci butto tutto, sarebbe il colmo, siamo di fronte. Ma è a Osile in una zona critica, capito? Non è Osile in una buona zona per Sassari e cose, è una zona critica. No, non so dove sia, comunque, diciamo, considerando che di Osile arrivano molto... Chi c'era di lì? Silvestro, quello che c'era di Osile, un altro mi pare, così era. Mi sembra di sì, infatti abita una centinaia di metri più su lui, però ha detto che a parte quello è nella zona storica, è sopra, capito, dove c'è il castello, la chiesetta, e dunque lui deve essere in mezzo a quelle case lì in basso, capito, è molto chiuso verso Sassari. Dov'è che abita? Giù nella prima chiesa, quella che c'è giù? No, quella che c'è su, su c'è un'altra chiesa, c'è. Più avanti, però. Come più avanti? Lì dove c'è la chiesa finisce tutto lì, non c'è lei lì. Ah, forse è giù. Ti fermi la chiesa e andi a piedi, no? Oh, non ci sono quelle case storiche lì, lì in mezzo, viuzze, quelle viuzze, ci andavo spesso io lì. E poi io arrivavo fino allo spiazzo per andare in crociera, poi non andavo più avanti. Ma io andavo lì, passeggiavo la chiesa e tiravo un garruzzo, a questa roba. Una volta mi sono avventurato con la sua botte, stavo facendo una corsa di gasolio per il spavento. Cazzo, mi sei creata la sua botte. Che ti sei casata? E una casa e l'altra, da cui andavi a far ritrovarsi, hanno camminato, si liscicchiava, era l'inverno, una sera, un buccio, una nebbia, era pure la neve, mira, un casino per finire. E come ti hai fatto, grazie? Piano piano, quell'inquilino dove l'ho portato il gasolio, perché era molto distante, l'unico punto era quello, però come era morto, era passato la presa sporca a caricare, ha riciclato perché ci sono quelle ciotole, ci sono, rimaneva lì lucide, lucide, poi c'era il ghiaccio, la neve. Lucania era detto un buccino giù di gasolio, cazzo stava la giapponetta. Lì mi pare una volta che io a casa ho chiesto dove era questa casa, se lo sapevo, questo mi ha detto mi sto andando io lì, ti accompagno io, ma ci passo, sì, non ti preoccupare, faccia come c'è un monteggio, un gasino va a passare, non riesce a andare lì, deve andare anzi, Io sono arrivato parecchio a uscirmi da lì, il padrone dove gli ho portato il gasolio e ha detto cazzo era belli, va a casa, pure i secchi, i ghibi, li aveva tutte le gomme, sotto le gomme, no, asciugli un poco di ghiaccio, cazzo ma dammi la pasticcina e ci fai scini. Io lo grido io, dopo la retromarcia, mi immagino. Se meno male che la botte me la proprio non l'ho toccata, ho toccato i fianchi del camion, che mi dice a nessuno, se educavo la botte la metto una bimba in deposito. Ma cosa? Cazzo, se pensi anche la botte è un casino, non te la fanno passare pure al collaudo la botte. Mi diceva sempre, distruggimi la rabbina, l'ubraccione, gli senti piatti, ma non mi zeriga la botte. Vabbè. Uno non è che lo fa apposta che lo sceglie, no? Uno, se succede, succede, cosa devi fare? Grazie, non è che lui decidi tu cosa devi fare, no? No, non è così. Non mi so che bagnelli. Oggi è così, siccome già lo so, poi io sono ancora a quel punto. Però se non arrivavo fino a là perché mi avevo dimenticato si prende la preunga a chiudere al tubo, capito? Però se ce ne va un po' in quella cosa ci arrivavo giù al tortello con il tubo, capito? E allora mi sono avventurato e ci sono cominciato, però mai più. Perché se non vieni ti possa essere in vecchio, così, capito? Perché? Non mi ha sempre la pena, ho tatuato. Troppo, troppo, troppo, troppo, troppo, cazzo. Ok. Facciamo girare, Gian Maria, raccontaci oggi cosa ti ha smurfito. Un po' di tutto, grazie a lei, sai, in campagna. Uno si deve adeguare, no? Certo, non roba come quando si è a casa. Tutta roba speciale per cui l'appetito c'era, la giornata non era tanto bella bella, però si stava veramente bene. Per cui grazie a Dio abbiamo fatto un pranzo all'ordine del giorno, veramente bene. Per cui soddisfatto. Sì, meglio così. No, io dopo pranzo me ne sono andato lì ai giardinetti dei Murti, e mi ho passato un paio di ore, e poi sono andato a San Pietro, che oggi inizia il mese mariano, sono le grazie. Fatto bene, grazie. Ok, ne approfitto, dai, devo chiudere, che c'è gente, per cui grazie della chiacchierata. Saluta in casa, grazie a Gianni e a Gian Roberto, che io ricevo tutto lui, a lui e vi ascolto per il finale e lo chiudo. Buona sera e buon proseguimento di serata. Buona serata a tutti, riprendi Roberto. Sì, ciao Gian Maria, ben sentito come al solito. Buon tutto e buona giornata per domani. Vai Gian. Ciao, ciao Gian Maria. Buona carica quando la fai e buona giornata per domani, ci sentiamo. Avanti, grazie a me. Papà, ciao Gio Maria, non mangiamo un mese, mangiamo a mezz'ora, ce la risettiamo, a domani, là. Ciao, riprendi lui. Mi sa che lui ci sta sentando, dai. Guarda, andate. Mi sa che adesso mi faccio quella peretta già. La peretta devi fare. Non appena quella che ci fa l'entusiasmo. Beh, questa è una pera, adesso è arancione, stanotte è verde. Così è. E allora è sciolina, va? Ehi, aspetta, mi disobbligliai sulla caldo. Ah, va, adesso punisco a mia, la faccio la guccia, va? Mamma, questa è fatta di ragazzi, dici che poi non con la prova, è nato. La roba di mia madre e la vita mi sbagliata, la pena come c'è a me a chi ti esce lo liquido. Vabbè, cosa vuoi fare? Grazie. Io so che ancora ti rende con i bastini, e diremmo che di non ci andare. E basta che tu non la approfitti con i caramelli, con i liquirizi, e buro, anche tu con i liquirizi non ne potremmo mangiare. Ma se non c'è zucchero la puoi mangiare, c'è da zucchero che mangio, capito? C'è proprio liquirizia normale, c'è da cose aggiuntive. Anche in farmacia la vendo, però è un po' più amara, eh. Io già me la compro ogni tanto, ma è più buona però, è proprio pura quella, Sì, quella è pura. Robi, avanti. Ecco, quindi siete tossicomani tutti e due, le perette le fa? No, io no, io non me le faccio pelle, io prendo, io mi pasticco. Tu sei coso, più perfezionista, là? Sì, sì, io prendo la vitamina. Via, yeah. Questa droga, già. Noi stanno dei ragazzini adesso, li vedi? 14 anni, sono tutti grandi, quando vanno in discoteca stanno tutti con queste pastigliette per tirarsi su. Mi hanno fatto vedere uno alla televisione l'altro giorno, allucinati. Ma quasi mai le iene? Sì, qualche volta. Perché le l'altro vento che lui lavora in discoteca per parcheggiare, ha detto con quei scolofoni, questa che quei ragazzi l'altra notte avevano avuto il più grande 16 anni, si sono tutti impasticcati, tutti buchi, poi fumavano spinelli, bevevano, proprio ci siamo fatti proprio ghiramea. Anche le ragazze, le ragazzine, i genitori che sono convinti che sono a casa tranquille, le amiche, invece si fanno a pisti, poi non parliamo di cosa combinano, oltre quelle cose che si prendono, cosa danno. Papi! Dimmi! Come sei noi? Tanti anni fa, quando avevo il mio camion, per il padroncino, avevo preso un ragazzino da Marcello Freno a lavorare con me, che me l'aveva chiesto il padre. Adesso mi va di anche un vicino, entrava in farmacia quando era Ulvia, a tempo me ne sono capitato che il giusto farmacista domanda a me. Entrava dentro in farmacia un biglietto che era scritto, che parte che gli voglia, e gli diceva al farmacista, stai chiamando, tu mi lo ti sono il camion, sono per lui. Ah, e vabbè, le ragazze, è uscito. Il farmacista ha detto, ma lei l'ha mandato quel ragazzino, io non l'ho mandato a nessuno. E infatti tra voi, che hanno giunto al camion, si l'hanno mandato anche la ragazza a pizza. E infatti ci andava a nome mio, no? Ce l'avevo mandato io, e se il prendeva il cimbriato non mi ha messo una sede di gamma. Ah, te lo immagino, un po' curioso io. Ci ha mandato le ultime. Proprio di tua! Già mi se ne intende, non sono più drogato, ma un po' me ne intendo. Adesso già non ho capito. Le ruipino sono, diciamo, delle pastiglie dei psicofarmaci, che agiscono tipo droga, va. Ti sconvolgono, va, che ti rendono mezzo drummito, mezzo boh. Io non so che gusto di vita, ricca. Sì, già lo conosco. Se li mischiano con le, per dire, ci mettono nella Coca-Cola, nella birra, li fanno uscire in testa, sono allucinogene. Sì. Le lupi non sono, sicuramente quelli lì, perché sono una delle più potenti che si prendono. Io non avevo scoperto un amico, quando nascevamo le ragazze da giovani, no? Nascevamo le ragazze, accompagnavamo a casa, ci trovavamo tutte in un punto, e ci facevamo per dire io che andiamo al pub a mangiarci un panino, e tutti gli amici andavamo tutti al pub e ci facevamo una chiacchierata, niente di male, così per stare in compagnia. E una volta siamo andati lì, ho trovato questo amico, praticamente aveva vomitato e gli ho guardato gli occhi, me ne sono accorto subito e ho detto cosa sta facendo? E mi ha detto già non mi ha fatto male, cazzo, non... preso, ce l'ho portato all'ospedale, ha fatto fare una lavanda gastrica, ci sono preso 3 rupino, era bacrimba, e ce l'aveva nascosto, c'era una pallina nella macchina, e una pallina di quelle portachiavi che si apriva, e ce l'aveva nascosto lì, è partito. Le ho sgammate, le ho tutte quante buttate via, ho detto se ti vuoi di nuovo, cazzo, mi la devi robe. Ma perché? Perché c'è problemi, mi sono lasciato con la mia ragazza, questo e quell'altro, cazzo, c'è problemi così, capito? E poi alla fine già si è rimesso insieme, cosa, adesso è una persona tranquilla, però quel periodo lì, cazzo, se l'ha vista brutta, l'ha fatto per più volte, io magari non me ne raccordo, però quella volta lì me ne sono accorto perché è stato male, gli ho controllato gli occhi e mi sono capitato giù. Chiaro, sono gente stupida, debole caratterialmente, ma io dico, con tutta la gente che c'è in ospedale, che vorrebbe vivere, stare tranquillo, non si possono invertire le teste, cioè, vanni dai, quello ti va a ammazzare, dagli a quelli che vogliono stare bene, a quelli che vogliono vivere, tutta la tua voglia di morire, e fai vivere quelli che vogliono vivere. Vabbè, purtroppo è così, vabbè, è così. E comunque questa qui è una persona tranquilla, c'ha un buon lavoro e tutto quanto. Allora ha passato quel periodo che stava male veramente, ma male, tutto, cioè ho dovuto chiamare io la ragazza, cercare di farli pacificare, cosa, perché sennò la riabilità da mai a vivo. Ah. Dai, io chiudo là, salutoni circolari, a domani. Ciao, ciao, grazie, stammi bene, dai. Buona serata e buona carica. Saluta Rusi e famiglia, ciao, ciao. Ciao, ciao. Avanti, ciao, grazie, a me sentito anche a te, alle prossime, buon tutto, ciao, ciao. Salutoni circolari. Tanto quando tu già assisti l'altra sera, tu avevi la gente che se la prende su Romagna, ma non era, cioè la giornata non era fredda, là, era così così sui 22-23 gradi, però c'era col venticello, tu avevi la gente che era in erba. Non vedo. Ma per noi invece abbattiamo una, ma c'erano 24 gradi, cazzo, il giorno che ce l'hanno tu io, ce n'era un bello, se siete in spiaggia, fatevi il bagno, no, ma in spiaggia ce n'era un bel. E c'è gente che vuole cominciare prima, perché così quando poi è tutto il vero periodo sono già abbronzati, non fanno figure brutte, se devono essere bianchi bianchi come il fagiolo bianco di Spagna. C'è un po' di turisti comunque, gente soprattutto tedesca, ho visto, rispetto al solito, diciamo, considerando che non era, c'era un pochettino di gente, e poi c'erano greppette dei ragazzini, tutti pagati in piena estate, tutti in costume e cose, tutti bagnati dall'acqua, ho detto, questa cosa stiamo parlando alle semi, non alle zinco, cioè no la mattina appunto alle mezzogiorno, e non già li voglio vedere domani mattina con il colpo d'aria che hanno preso. Vabbè, io ti dico una cosa, quando sono andato a Sirmione in albergo c'erano questi tedeschi, io c'avevo la stanza che dava sulla piscina, c'era il prato all'inglese davanti e poi c'era subito la piscina. Beh, questi tedeschi cazzo alle 6 di mattina, alle 6 e mezza di mattina si facevano il bagno, con un freddo che ti cantarava, eppure si facevano il bagno. Non so, i tedeschi, cioè noi siamo tutti coperti, impacchettati, quindi mai che accorta in canottiera, in sandali, non li abbiamo visti molte volte, quelli che vengono a ottobre, cosa che noi siamo già in cose autunnali, e quelli te li vedi in piena estate, a canottiera, ciabatte. Sì, sì, sono così, senti la rumorino che mia moglie sta facendo la nostra cosa. Eia, pensavo fosse un finale da un chilo, ma... Non li ho mai usato io, questo cose. Eppure cazzo, solo per gusto avrei voluto fare un giorno non certo a qualcuno di quella frequenza, attaccare solo per vedere una cosa grossa, non ne ho, però solo per vedere cosa succedeva. Io penso che se tu usi un kilowatt dentro città oscuri quanto c'è nell'arco di 100 metri. E c'è gente che ne usa anche di più qua in città, in quella frequenza. No, io parlo sulla 27, non parlo su frequenze amatoriali, a mettere un kilowatt qua dentro. Io una volta, non facciamo nome, però so chi è, aveva attaccato il filare da 3 kilowatt e mezzo, un radioamatore famoso. Tu dove vedi cosa è arrivato questo segnale allucinante, cioè non è dire, cioè adesso sei per dire Santiago 9 e da 9 passi a 9,60, però no, come può essere qua vicino Claudio, parliamo lontano questa persona, una cosa da paura. Vabbè, ci credo. Capita di chi è, comunque non faccio nome. E vabbè, io li ho visti anche quelli che usa qui. Io ho visto uno che ne ha bello grande. E li ho visti. Diciamo che sono cose che ti fanno arrivare in capo al mondo. Grazie a quelle cose lì riesci ad arrivare in punti dove altri non riescono. Però so che hanno anche disturbo là. Lo so se, vabbè, quelli sono valvolari, quando sono apparati valvolari non è come transistor, le armoniche sono molto limitate, le distorsioni eccetera eccetera, per cui paragonato a un transistorizzato le armoniche sono molto ma molto limitate, poi usano apparati super professionali, antenne ad alta resa eccetera eccetera. Io mi ricordo solo una volta a Platamona, ti presente, c'avevo la RAM 48 e a parte che non è che mi ascoltavate bene, mi aveva prestato un amico un piccolo amplificatore Torino, sarà un 20 watt, 25 watt, come ho schiacciato portante, ancora non c'era la televisione digitale, come ho schiacciato portante, quella fianca a me si è spenta, la proprio spenta, si sento e non si è visto più, è diventato nero, e sentiva solo a me, è venuto immediatamente, sacca nel tutto. Ma magari eri molto vicino, Sì, saremmo stati 5 metri, forse neanche, le antenne nostre erano a 5 metri di distanza. Neanche, dai, già, di meno di 5 metri. Però se prese la Patamona per ricevere la TV deve essere amplificato, sono antenne molto direttive, le ha preso in pieno il segnale, ha scoppiato tutto. Scusa, vabbè, che non capisco un capo, lo sa che sta facendo la spiaffone. Detto che siamo, eravamo a 5 metri di distanza le antenne, lui con un'antenna direttiva puntata verso, credo che sia verso l'imbara, con un amplificatore ad alto guadagno, per cui amplificava ancora di più tutte le armoniche mie. Io ho niente col televisore. Ma perché c'era qualcuno che sta sentendo avvicinato? No, sto parlando amplificatore di coso, TV, lui ci aveva, tu per ricevere la Patamona, ci vuole un'antenna ad alta resa, con un amplificatore, se no non prende niente. Adesso magari col digitale è un po' più facile, ma prima se non avevi un'antenna con un grosso amplificatore non prendevi niente. Eppure facciamo diversamente, perché l'antenna di Patamona riflette, ma pensiamo che fosse come segnale 27. No. Patamona addirittura il problema, adesso magari no col digitale, ma prima lo sai come quando entravano i canali francesi, oscuravano tutto, cioè non vedevi più niente, sovrapponevano, un macello, infatti l'entrata era sempre un problema, e soprattutto quelli che avevano le amplificate. No, c'era uno a fianco, questa persona che ti sto dicendo che mi ha detto che l'ho disturbato, questo era un vecchio CBO, è una persona grande, c'ha più di 80 anni, ci avrà 85 anni, ma lui c'aveva 13 metri di palo con amplificatori e tutto, era l'unico che c'era di lì, questo è uno di quelli che vive tutto l'anno. Ma parlava, dice, tutti i giorni accompagnava quello della Coso, della Tirrenia, c'era un tipo della Tirrenia, dice, tutte le notti si sentivano sino a Genova, lo ascoltava. E chi era questo qua? Vabbè, il cognome non te lo posso dire, Gino si chiama comunque. Addirittura gli avevano fatto mettere, sulla antenna era talmente alta, gli avevano fatto mettere la luce sopra l'antenna. Sì, perché per gli aerei per il coso, sì. Non lo so, sì. Devi mettere, obbligatoriamente dopo un certo numero di mesi devi mettere, quando sono tradici, eccetera, eccetera. E vabbè, comunque, la Patamona poi è molto facile, tutto mare, capita invece. Sì, infatti lui era in alto di lì, dice l'accompagnava sino a Coso, sino a Genova, poi staccava come attaccava la nave e staccava, però dice tutta la notte, dice, parlavano sino alle 4 del mattino, alle 5 del mattino, dice, stavano tante notti parlando. Poi c'erano questi amici di Coso, della Corsica, lui mi faceva i nomi, stiamo parlando negli anni 70 già, non adesso, qua non è roba di adesso. Vabbè, stai parlando di anni che ce l'ho anch'io. Io ho parlato con amici della Corsica, parlavi con Badesi, parlavi con un sacco di fusti, ma non era come adesso. Con la Corsica era all'ordine del giorno parlando, proprio come se si parlando delle cose di computer d'ora, la notte si gosa. E adesso non ce ne sono più di baracchini di CB in Corsica, però una volta solo mi è capitato a me, questo qua però non ho capito dove era, non me lo ricordo adesso il paese, perché la Corsica la conosco abbastanza bene, almeno i paesi più importanti li conosco, ci sono anche andato. E volevo dire, chi è questa antenna? Hai visto, vi affermi, vicino ai Vigili del Fuoco, c'è una mantova di lì sopra, di chi è già? Te l'ho vista anch'io, ma non so di chi sia, te lo so dire, non lo so, l'ho vista anche io. Si vede anche da viale, dalla parte di via 25, ma via 4 novembre. No, aspetta, ce ne sono due però, quella che vedi è quella rovesciata, sta dicendo. No, sono Mantova, dietro, lei vede da dietro il coso, da dietro dove c'è la veterinaria, dove c'è la veterinaria prima, boh. No, questa la vedi, il muro della Gonzaga, la vita con la rotatoria che fiancheggia la Gonzaga, venendo da via Milano, parallela alla strada che fiancheggia il muro della Gonzaga, ho alzato lo sguardo e l'ho vista oggi, in alto, poi c'è la chiesa San Paolo, me proprio, e poi c'è un'altra verso via Duca degli Abruzzi, però quella lì è colicata. E c'erano vecchi CB che adesso non so chi siano, magari li conoscevo anche, ci parlavo anche, però non so chi siano. Ma se vai a Pornotone, se di antenne, se vai a satellite solo ce ne saranno una, allora io ne cose, una, due, tre, quattro, cinque antenne solo a satellite. Sì, ma portatore ce n'erano un bel, almeno così dite voi, ce n'erano un sacco di CB. Adesso mi pare è rimasto solo Gianpaolo, Alessandro, chi c'è, Gianluca e Buc, che parliamo noi. No, ce n'è anche un altro, in via Balai, non mi ricordo come si chiama, perché non lo sento mai, Gabrino mi pare si chiama. È quello che diceva Gigi poco fa, che ha la macchina uguale alla mia e c'è l'antenna dietro. Ma non entra mai questo? Non penso che faccia ascolto e buh. No, l'ho sentito qualche volta, raramente però. Oh vabbè, se consideri, anche nei paesi vicini. Non ho più sentito, come si chiama quello di Ittiri? Antonello era di Ittiri. Antonello, c'è Gianni di Ittiri, Antonio mi pare. Antonio forse, non te lo ricordi? Già, ma quello dicono di Paolo che stai dicendo tu, quello che non entrava, c'è anche un'altra la stazione a casa, c'è un 44, c'è una mantova. Io conosco gente qua di Sassari, di vecchi CB che hanno ancora il 44, due sicuri ne conosco, gli altri l'hanno venduto, l'hanno fatto fuori, questo qua ce l'ha ancora insieme a un'altra persona, c'ha tutto amplificatore, si vantava che c'era una stazione bella grossa, mi ha detto no, c'ho tutto quanto, mi è rimasto tutto. Io ricordo quasi tutti quelli che c'erano negli anni 70, 75, 80, quasi tutti li conosco. E più o meno so cosa c'è, per fanno anche le apparecchiature, perché loro lo dicevano, sai come adesso, so che qui c'è quello, quell'altro e quell'altro, ma così lo sapevo di loro. Super Pippo, lo conosci, l'hai conosciuto? Allora diciamo 44, quello c'ha gli amplificatori, non so se li aveva tirati via, però c'aveva gli amplificatori grossi grossi qua. Chiedi io se mi conosci a me. Giuseppe. Sì, in radio lo conosco, in persona no, ma in radio sì, tu dici ho parlato più volte. No, no, io lo conosco bene di persona, adesso sono un po' che non lo vedo, so dove lavora, che tipo di attività fa, c'è un laboratorio, centro studio, cos'è quello dove dico? Ma laboratorio di radio? Appunto riparano, diciamo chi ripara è l'amico, il collega, lui si arrangia, dai, ma quello, il cranietto e l'altro succio. Sì, ce ne sono tanti che magari hanno la stazione a fare ascolto e basta. Sicuramente che fanno ascolto già ne conosco, gente infatti che mi ha sentito, ti ho sentito a te, ma perché non entri? Non mi piace, forse gli manca la voglia, e anche la faccia per certi versi. La passione a volte non è quella giusta, è come quello. Come quello che smette di fumare, proprio bisogno della sigaretta e riprende, così è la CB. La CB è lo stesso, io sono stato 10 anni che non ho rullato più, ho ripreso, vuol dire che la passione ce l'ha il cuore tutto. Sicuramente tu sei sicuramente uno di quelli che ne ha più di tutti di passione, anche Coso, Gio Maria, Giulio, sono i primi che ho sentito. Il primo va bene assoluto è stato Luca, però Luca adesso è un po' scomparso come Coso. Poi Claudio, lo stesso sono quelle persone che ci sono da tanto tempo, almeno ininterrottamente li ho sempre ascoltati. E, diciamo degli anziani, Giulio e Gio Maria sicuramente sono quelli che ci sono prima di tutti. Sì. Vabbè, loro modulano a certi orari che magari, diciamo, se non è che sei in figlio, è che magari non vai a lavorare perché sei malato, poi non lo dici. Hanno orari particolari per dire, entrano verso le 5 quando io vado a lavoro, mi accompagnano sia a lavoro, poi alle 7:30 io mi sento che stanno per chiudere, quindi poco li sento, però diciamo che sempre così. C'era anche Mario Mau che ogni giorno entrava la mattina con Gio Maria, poi faceva il suo cucù e se ne andava, diceva che gli davano lo sfratto, le file che dovevano lavare, e allora se ne andava. Però anche lui era assiduo, ogni mattina si sentivano con Gio Maria, capito? Però che era un bel assiduo, te lo ricordi che tutti i giorni, io lo sentivo mattina e sera, quando accendevo c'era sempre la falchetto, scomparso, non l'ho più sentito. Sì, il falchetto bisogna andare a chiudere, ragazzi. Ciao, guardi, prego. stazione Maramo Guglianova. Nella zona del Monte Alto. Arrivando bassino là per essere al monte. Adesso ti sento bene comunque. Sì, ho appena piantato la stazione da bene. No, adesso un passaggio l'hai fatto bello pieno, radio bella forte, e poi questo passaggio sei di nuovo basso. Ti rilancio Gianni che se dalla del Monte ti dovrebbe ascoltare più forte di me. Comunque qua Santiago 9, radio 5 quando hai parlato con livello alto, se no sei basso. Sì, comunque vi ricevo molto forte, tutti e due. Questo passaggio va bene, vai già. Papà, io do una buonasera a non ho capito chi sia, perché mia moglie non ha ancora finito di passare l'aspiratore e qua c'è un po' di casino. Non sentivo nulla, adesso mi sono messo le cuffie così almeno devo sentire bene. Dai, l'operatore del Perù che ti supercordializza, vabbè, ma dico non mi attivo, così almeno capiamo di sì. Alfa 21, stai scendendo un po' a scariche, non so da cosa dipende, se colpi tutti dal microfono sicuramente, il fatto che si abbassi e cose probabilmente c'è tutti più possidato, tocca mettere un po' di spray per contatti e si riprende. Comunque ti ringrazio, come dice pure, grazie. Perché non la stai modulando? Praticamente sono filichetti. Ah, allora, va bene, va. Ho capito. Dove c'era un amico là, è un grande amico, non so se tu hai conosciuto Manolo. Come è negativo? Manolo. No, perché modula la 7000 filichetti, poi c'era anche la Santa Paolo e tutta la cosa. Che ti è fatto un po' male, ma in questo momento. Perché io sono in zona, non vi metto. Gianni, ti sei arrivato male perché c'hai la sfida polvere accesa, non perché per l'altro, perché il segnale sicuramente arrivi molto molto più forte di me. Comunque stava dicendo, Natalino Alfa 1 era di lì a Filichetto insieme a Manolo. Ah, ecco, mi arrivi molto forte. No, vabbè, la stazione io l'ho piantata da poco. Ah, io 100 volte. Salve. Ricordo alcuni vecchi cd, ma quelli sono vecchi. Guarda, uno vecchio è entrato adesso, ma vecchio vecchio, questo si avrà 75 anni, avanti qua. Beh, 75 anni stai correndo in due sacavotti, papini. Adesso stacco molto, vi sto ascoltando. Sono tornato dentro una roba al Cagliari. Statemi bene, proseguite Gianni, non di comunque c'è un accidente, aspirapolvere, non aspirapolvere, c'è un rumore sotto, allucinante. Buonasera, Alfa 21, abbiamo ascoltato 5-9 qua, però la modulazione è molto bassa, devi cercare di tirar su qualcosa. Riprendi e fai girare, buonasera Claudio Spagliere, la Sassari. Ciao Claudio. Così, in divertimento, va. Ma qua ho visto che c'è a Bandimana, c'è complessi, ci sono bancarelle, di tutto, però si paga l'entrata, non so se c'è la festa del lavoro o qualcosa del genere, ma si paga l'entrata. Sicuramente, e di preparazione già. C'ho 200 collegamenti in 10 minuti già. Stamattina alle 6 mi sono fatto Venezuela, tutte quelle zone lì. La direttiva oramai, sto come parlo, mi conoscono subito i brasiliani, Cuba, Venezuela, tutte cose. Sì, quando c'è preparazione nel 27 c'è anche il 28 qui. Poi la notte c'è per 4 ore 3, sempre picchiavo forte, alla gente giorno di lavoro già si sente la ventola andando. Va bene, va bene. Ok, e tu Roberto si abbraccia un po'. Sono uscito col capo per farlo camminare a fare un giro, sentino stamattina, sono entrato un'oretta fa più o meno, dai. Ok, ma bella questa sera, volevo andarci ma non avevo gara, troppo lontano, bella era, ne vale la pena. Il mondo, bellissima, bella. Quello della bella di Sassari, Beh, altre cose, anche perché sei all'interno, quindi so, mangi lì, fatto di più, una bella passeggiata, sono andato a correre lì, non ci chiamo, ma per vedere lo stadio che hanno nominato lo stadio della vergogna, e comunque molto bello anche quello, diretto a Fortinatas, mamma mia, roba già. La strada è buona, c'è solo quello svincolo, quello di Monserrato si chiama, di all'ingresso, è una ventina di chilometri da chiedere, tutto deviato, stanno facendo il ponte, ma per il resto già va bene, un po' di gente c'è comunque, ma non la santa, forse c'è la santa fisica. Vabbè certo, c'è la stessa santa fisica, non so per dire io, per quello. Ah, e poi sono andato a... dove l'ho fatto io. Io ho fatto un salto, sempre una vita di cura, San Rocco. Sono andati al Fonte Village. Qui c'erano degli amici e figli. E poi ci siamo tornati. Vai, domani si lavora, gli ho dato lì. Siamo tenuto casa buchina, allora. Vabbè, almeno che così bene stavo. È una partita nel Barcellona a Bayern. Oh, prima che ce la guardiamo, io ho visto il Real, ogni tanto non ce l'ha fatta passare il turno, non ha fatto una bella partita, ma questa è la Coppa, la Cerchia tedesca, pazienza. Va bene, dai, vi saluto, un abbraccio a tutti e due, statevi bene, saluto chi sta ascoltando, il mio lontano. Faccio una docettina, mi rifresco un po' e poi magari ci sentiamo dopo, se concilio avanti già. Gappa gappa, io devo ancora mangiare lo stesso. Vabbè dai, ci sentiamo qua, se coincide ci sentiamo dopo. Avanti Roberto. Già si sentiamo, vabbè adesso tremavo un pochettino che vado a mangiare, che mi è venuto a fame e poi mi guardo la partita. Buon tutto e buona giornata per domani. Già, comunque in ogni caso i concerti se vuoi andare a Grazie, se vuoi andare a Venezia, a Vera Romondo, quando sono passato davanti, cioè sono un sacco di gruppi oggi. Ma dove c'è la pinetta di tulipone, lì? I giardini di via Venezia, che pinetta c'è? I giardini, quelli che ci sono, i giardini pubblici di coso, di fronte a come si chiama, ma i cubi. E ho capito il parco là, il parco di via Venezia. Quello lì, non Monserrato, via Venezia. Sì, ho capito, dove sono i giochi per i bambini. Via. Ma è bello quel parchetto lì, soprattutto quando inizia prima dell'estate, verso maggio, la sera, sai quanto si sta bene, bello al fresco, si sta troppo bene. È aperto la sera. Come, aperto? Lo lasciano aperto. No, la notte lo chiudono, però credo che sia sino tutto di quando inizia in questo periodo, però l'estate sino alle 9:30, 10, a meno che non ci sia un'attività, qualcosa da fare. Bravi. vicino a casa la pietra in bandimanda ci sono sempre complici e cose, però si paga ogni multa, sono andato a vedere a lui e ho pagato lo stesso. Era una cazzata, c'era un tragitto dove c'erano tutte le bar, tutto al buio, così i teschi, l'aria che soffiava, tutte queste cose qua, un tragitto così, poi c'era una consumazione, 5 euro. Valenti. Cioè, sei andato a Colorado già? No, io non ci sono andato, c'è andata mia moglie, mia figlia, mio figlio, e io non ci sono dovuto andare, cazzo. Troppi soldi, a 90 euro già allora lo stesso. Come sono divertiti, mi c'era mio cognato come servizio d'ordine, vigili del fuoco, servizio d'ordine, servizio di intervento. Ha detto che una delusione, si aspettava molto ma molto migliore, dice dal vivo non mi so più, a parte qualcuno, dice vai da Rumondo, una cosa spaventosa. Mia moglie mi ha detto che era più bello Pintus con l'altro, con Pucci, che facevano ridere di più. Quel Pucci l'avrei cagata in testa, per quanto lo posso vedere, Pintusu mi fa morire, io molte volte me lo guardo su internet, mi metto su YouTube e cerco Pintusu, quando fa gli spettacoli da solo, ti fa morire, è una cosa, c'ha una spontaneità, poi col pubblico non parliamo che molte cose sono sempre preparate, sono le stesse, però tante volte coinvolge il pubblico, lo fa per dire nei supermercati, tipo città mercato, centri commerciali così così, o in teatri. È allucinante, quello che fa quello lì è fuori dal mondo, le imitazioni poi, come ti coinvolge, è proprio bravo, bravo. Purtroppo non ho mai capito per quale motivo non gli fanno fare un programma apposta per lui. Cioè si sono fissati con questi due macchi, questi ficcarra piccone, gli altri imbecilli che ci sono in giro, questo è veramente bravo, ma bravo, bravo. Bisogna avere solo fortuna e calcio severo per fare successo. Comunque mi ha detto così, mia moglie mi ha detto, guarda, mi sono piaciuti, abbiamo riso, però erano meglio, dico la verità, Pintus e l'altro, e Pucci, dice che facevano vedere di più. E comunque quel Pucci è anche un po' caponcello, È quello che non mi piace, cioè un pubblico, cioè un comico, non deve dire le parolacce per far ridere, cioè dici una parolaccia e tutto ridendo, secondo me non è comicità quando dice le parolacce, quindi su rarissimamente io ho sentito dire le parolacce, cioè i veri comici parolacce non ne dicono, non è che tu dici la battuta per far ridere con la parolaccia, è troppo facile così. Ha detto una parolaccia grossa anche quando c'era mia moglie, ha chiesto una fenda, questa ragazza la stava facendo vedere, non l'ha vista e mia moglie ha detto guarda che ce l'ha lì, dai, tu fatti i cazzi tu, quando tu lavori se ti invece si mettono in mezzo alle palle, dice ti dà fastidio, e se ce l'è rimasta un bel male. A tua moglie la vede? Allora? Tanto la vede, le avrei cagato in testa, le avrei detto, ho brutto maleducato, perché non te ne sono invece venuto? Quanto fai la figura di capo? Sì, vabbè, mia moglie non doveva dirlo, perché magari lui l'ha fatto per far spettacolo, capito? E chi c'era per... questa ragazza che la sta facendo vedere, mia moglie ha detto, ce l'ha lì? Io gli ho detto, tu facci. C'è il cazzo, c'è. Boh, ha detto Galicia, però c'è rimasta di merda. Ah lo so, lui l'ha fatto per fare ironia e cose del genere, però tu non puoi fare ridicolizzare una persona perché dice la parolaccia, quella era preparata sicuramente, con quelli che si siedono vicino e dice ma Vito ti sei, vado ogni naso, vai da queste orecchie che ti fanno appetito, io non l'ho mai sopportata la gente che prende in giro le altre persone, i comici, cioè fai lo spettacolino tuo senza prendere in giro gli altri per far ridere, cioè non è una comicità quella. Ma sai che mi sono piaciuti quelli che hanno vinto, diciamo, non meritato. Esattamente, però bravi, Italia Ghost Talent, l'hai visto i fratelli Lo Tumulo? No, non l'ho visto. Io dico una cosa, Masciarini, te lo ricordi Masciarini? Boh, di nome adesso descrivimi cosa fa, di nome l'ho sentito. È un comico, dai, quando abbiamo fatto la festa della Sisa c'era Masciarini, c'era come si chiama quella, la Stefanenko che presentava, c'era Roma, eccetera, eccetera. Ma Masciarini ha visto uno pelato del pubblico, e gli ha detto, noi in due lo facciamo una parruzza. Addirittura. No, a me lo sai che mi piaceva, lo stesso che non si è più sentito, Franco, attore quello, oh Franco! Eia, sì. E poi, niente. diciamo che io la verità non ci sono andato per risparmiare qualcosa, perché cazzo mi sembrava eccessivo e non volevo tutti così, siccome c'erano delle amiche con i figli, vai tu con le amiche, con i figli, con Marco, con Manuela, io cosa ci faccio? Non c'erano manco i mariti, quindi cosa ci facevo? Oh, dai, è una cosa carina, ma se fosse un prezzo ragionevole, finché ci vai tu e tua moglie sono 60 euro, ma se inizi a portare tutta la famiglia 3x4 12, sono 120 euro e non è poco, no? E infatti, come poco no, e non ingrassano tanto, perché quella serata passa, loro vanno di dire e non rimane che 120 euro già sono quasi 200, più di 200.000 lire di vecchie lire, meno, non stiamo scherzando, tu con 200.000 lire a ci andavi a mangiarti una pizza, quante volte ci andavi 15 anni fa già? Magari il sabato sì, ma ci andavo, ma con tutti quei soldi lì non ci avrei fatto mai un po' di sabati. Anche lì io cercavo sempre di risparmiare perché stavo facendo la casa quando ero fidanzato, quindi non ci andavo spessissimo, ma i sabati ci andavo anche a ballare. Anche c'erano persone e amici che andavano a gogo proprio venerdì, sabato, domenica, e ci andavo solo il sabato e via, basta. Guarda, io sapevo una cosa che è buona, noi di sotto che andavamo sia il sabato che la domenica, qualche volta parlavamo di domenica, ma io rarissimamente pagavo di sotto perché erano tutti amici, per questioni di proprietari, mai, ma su 100 volte sono andato l'ho pagato non più di 30 volte, ma proprio esagerando, perché tutte le cose erano sempre amici, poi le feste le organizzavamo, ero uno di quelli che le organizzava, per cui le facevo io le feste, per cui no, io distribuivo i biglietti. E lì alle pubbliche relazioni, PR, KK, sì vabbè. Anche noi ne abbiamo fatto tante, feste dei ragionieri, dei geometri, questo e dell'altro, andavamo a tutti questi balli qua, a Lunguleggio andavamo a ballare, Lunguleggio quello che c'è andato un metro prima, non so se te lo ricordi. No, capito, ma lì non ci sono mai detto. Noi ce l'avevamo, noi personalmente, io quello io e mio fratello e gli amici della Grecia, ce l'avevamo noi per tanti anni, l'abbiamo tenuto, poi quando siamo diventati più grandi, che ha iniziato a prendere le macchine, siamo andati da altre parti, abbiamo iniziato, la prima discoteca che siamo andati era il Serra Nera, che era bellissima discoteca, proprio bella bella, e poi c'era il Playboy, non so se l'hai conosciuto a Sant'Orso, era un buchettino, però già andava anche quella, e poi da lì si è iniziato a girare tutte, dal Blue Star, tutte le altre discoteche, Lady Night, tutto, e tu dimmi una discoteca che ti dico se l'ho girata, il 90% della zona, le principali le ho tutte girate. Io lo stesso, il Playboy era una casa, era una villetta dove c'andava gente elite, e io ci andavo a ballare molto spesso, probabilmente ci siamo anche visti, perché io ci andavo molto spesso e ci avevo sempre un bel po' di ragazze con me. Sì, sì, per me era tutto un ambiente di fighetti, noi conoscevamo i padroni, è stato così, Serra Nera, eravamo perché i figli dei padroni erano tutti amici nostri, gente benestante, poi non parliamo del Biblos, quando c'era il Biblos, tu ricordi il Biblos? Papà, no, non mi ricordo com'era. Il Biblos, il Mandingo. Ah, sì, il Mandingo, io non conoscevo il Mandingo, adesso... Sì, ci sono andato anche lì una per volte, Marini, la Marina addirittura mi sono rimorchiato questa tipa, una volta ballando in lento, ho detto c'era solo, mi metto di sì, ho detto, diciamo, sì, sono sola, ma perché me lo dici così? Ho detto, no, perché così? E questo amico mio stava parlando con un tipo al bar, e mi faceva un segno, e stava se la ballando con questa, ma l'ha contato un po' di Roma, e ma chi si è fatto? Prendevo e vado a questo amico mio e mi ha fatto, ti presento un amico, e mi ha detto, ascolta, se hai intenzione di fartela quella lì, va bene, se no lasciano andare perché ce l'ho io, praticamente la Romagnaccio. No, poi andavamo spesso, perché lo stesso c'erano amici proprietari, era Calabona, ad Alghero, non so se te lo ricordo. Calabona, Mampea, sono andati tutti qui, addirittura una volta a Mampea, quando sono qui hanno sparato, cazzo, guarda, sono uscito fuori a fumare una sigaretta e hanno sparato il parcheggiatore, questi tipi di dove cacchio erano, fosse un paese di vicino di Bosa, erano stati bei animali, quando poi venivano i sassaresi, mamma mia, ho visto di tutti i colori, anche a Porto Torre si può andare al balà, facciamo quella discoteca di Porto Torre, il mais può essere. Mais, sì, quello lì era un mais, Club 24 c'era Porto Torre. No, proprio discoteca di fronte al porto era, dove c'è quella, adesso c'è il coso, una specie di negozio tipo che vendono roba da mare o cose del genere. Allora io mi ricordo che a Porto c'era la ballata e c'era il Club 24, vedete che c'è un minuto lì adesso, c'era il Club 24 lì, poi ce n'era un'altra che l'abbiamo fatta, c'era ragione, e non mi ricordo come cavolo si chiamava, che poi c'era giro di droga, roba del genere, in bari, erano chiusi. E lì sono andato, noi per conto nostro, però c'erano degli amici nostri con un altro gruppo, ogni afferrato di ogni giusto a Gianni Cutto, mamma mia, infatti ce ne siamo andati. Questi portoteresi hanno picchiato a questi sassaresi, gente che conoscevamo di noi, ma senza motivo, così provoccati, quelli si sono difesi e poi alla fine ne arrivi da una greffa, hanno buscato fuori. Mentre l'estate andavamo a zone tipo Santa Teresa, andavo anche a Porto Cervo, sono andato un giorno a Porto Cervo che ridere, non facevano entrare a nessuno, chissà qualcosa, noi stanno fatti entrare. Eravamo proprio randati, forse ci hanno preso per ricconi, figli di ricconi, eravamo tutti in camicia a Vaia, proprio randaggi, non facevano entrare a nessuno, era un ambiente super selezionato, tipo quando vai al biglio o una cosa del genere. Nessuno, tu arrivavano le greppe, no, non potete entrare, non potete. Siamo arrivati noi e ci hanno fatto entrare, o ci hanno confuso per qualche di una, ma di divertimento del giorno, già un locale allucinante, il topo dell'estate della Costa Smeralda era il Gis, c'era Gil Cagnè, non so se l'hai mai sentito nominare, lo stilista che era il padrone, c'era la DJ internazionale, questo qua, un mostro, una cosa allucinante, ed era dentro una casa, dentro una villa, ma tu devi vedere, c'era presente la Mercedes, gente a quei livelli lì, quando c'eravamo noi non c'era, però c'era andato pochi giorni prima Mike Mognon, c'era la piscina dentro, si sono cucuti a muglio, guarda una cosa allucinante, c'è un ambiente di quelli super ricchi, e noi chissà perché eravamo in quattro e ci hanno fatto entrare. Te la faccia un boss deve essere. No, io sono andato allo Smai, a Smaia, poi sono andato al Siocchi di Sintino, non so se sei mai stato lì al Siocchi. Non so dove rimane, con questo nome no, ma io, guarda, se mi fai il nome di solito che almeno il 90% li ho girati, e perché tutte quelle vicino qua, di Ussi, lo Scalaruia, il Brusta, l'Aiport, la Maricuri, il coso, l'Olimpo di Uri, cosa vedi, di certe? Dimmene una, perché poi tra l'altro erano tutti amici, padroni, per dire, quest'estate, cioè quest'inverno per dire, prendevano questa discoteca, poi l'inverno dopo ne prendevano un'altra, e noi ce l'avevamo a loro, ce l'avevamo girate tutte, le discoteche, Lady Night, a Valleruria, anche lì altri nomi di discoteche che mi vengono, ma non parliamo del Ruscello, vabbè, il Calabona Ruscello, il Palladium, il Mampea, e nomi di discoteche che io te le dico tutte, perché sono andato a tutte, il Corallaro a Santa Teresa, l'unica che non sono andato, che sono andato però era troppo presto, poi ce ne siamo andati, il coso, il Ritual, a Bahia Salina, era una delle più belle discoteche d'Europa, dentro scavata nelle grotte, non so se l'hai mai visto. No, mai ci sono stato, non mi basta senza nominare. E tutte quelle che ho nominato ci sono stato anche io. E le ho girate tutte e quattro. Anche a Castelsardo, quella non è letta. C'era una Castelsardo, la Ventola. E quando andavo io si chiamava così. Due ce n'erano, la Ventola con la Salendo uscendo dalla Castellana e una dentro sotto il castello che non mi viene il nome spesso, però che andava più di tutti era la Ventola, un altro ambientino mio, ogni risse a costa della mente, mamma mia. Poi a Osilo c'era il Pin Panther e il Pueblo, di lì abbiamo frequentato per un paio di anni, poi rimanevo sulla taglia, a me e agli amici miei abbiamo rinunciato, non ci siamo più andati. Ci sono andato una volta e mi ricordo a Carnevale mi si è attaccata questa tipa, una tesi, una cosa catronfia, mi si è attaccata questa tipa e il numero, e io lo stesso avevo la maschera, cioè non mi ricordo che cosa cacchio ho visto, e lei mi diceva dai togliti la maschera che così ti bacio, e io no, se bacia mi si è attaccata la maschera, se manco male, ragazzi, che poi alla fine l'ho convinto a prendersi la maschera, come l'ho visto, scusa un attimo che ho visto l'amico, come sono scappato, che se l'antaravea. Ma poi dove stai attento a usilo? Le ragazze poi come vedevano i forestieri loro, chiamano a tempo dell'animale dei marci, infatti noi un giorno è successo una mega rissa, un mezzo grosso, coinvolto, infatti gli altri accanto loro in altri modi, perché adesso tanto devo chiudere. Infatti dal giorno, io sono tanti amici miei di usilo, noi adesso siamo stati per 3 anni, eravamo non di quei padroni, nel senso andavamo a braccia aperta, poi un giorno c'è stato un problemino e da lì, sempre per questione di donne, da lì è successo un mezzo macello, dal giorno non ci siamo più fatti vedere, che se no vuoi. Ci sono ritornato dopo tanti anni già con altri gruppi di amici in un'altra discoteca che ci avevano riconosciuto, subito inquadrati, ne è arrivata a questa greca e ha detto io andiamo via che sennò qua si mette male, ce ne siamo andati. Eravamo noi una roba di una ventina di persone, forse anche di più, e arrivi da una greca a tutto il paese, perché ci avevano riconosciuto a me insieme a altri 4 o 5. Ti sto dicendo io fuggi, se no vuoi. Vabbè già, io adesso devo interrompere, vado a mangiarmi qualcosa riguardo la partita. Ci sentiamo alle prossime, QRT da parte mia, ciao ciao. Ciao ciao Robert, comunque io ho avuto anche la ragazza così ho qui, c'ero di casa. Ciao Magala, ciao Robert, buona visione partita e buona carica e votiamo a comprare la mano. Ciao ciao. Ehi, ciao ciao.